Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E bentornati, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda, una nuova puntata, la terza di questa nuova stagione di Zibaldone 2023-2024. Oggi è il primo venerdì di ottobre e ci troviamo qui per una puntata speciale. Non vi dico nulla di più, però magari secondo me la capirete ascoltando questo frammento musicale. L'avete capito? Ma forse sì, forse no, forse siete stati anche un po' ingannati, vi portiamo sulla cattiva strada? Beh, insomma, allora sentitevi qui un'altra canzone. Forse con questa capirete meglio di cosa parleremo in quest'ora di Zibaldone, dalle 5 alle 6 su Radio Contrabanda Barcellona. La donzelletta torna alla campagna leggendo la Gazzetta dello Sport. Come ogni ragazza lei va pazza per me, alza che farete a tempo di vostro. Non porta un fascio d'erba sulla testa, né reca tra le mani un mazzolin, ma sembra un figurino col suo candido abitino, col cappello in feltro e l'ombrellin. Lei sa di già chi vincerà la nadata del giron, e chi dirà chi infilerà per primo nella rete un imparabile pallon. La donzelletta torna alla campagna leggendo la Gazzetta dello Sport, e come ogni ragazza lei va pazza per me, alza che farete a tempo di vostro. So che la settimana scorsa abbiamo fatto uno speciale dedicato a uno speciale, abbiamo parlato di Giorgia Meloni, la situazione dell'estrema destra al governo in Italia. No, non vogliamo fare una puntata sullo stesso tema, tornando ai brani fascisti. Ecco, attenzione, perché questo brano era del 1939-40. Però, insomma, do il benvenuto innanzitutto, il buon pomeriggio al nostro ergonomico Banzo. Banzo, bentornato, perché tocca a te un po' spiegare ai nostri ascoltatori di cosa parleremo quest'oggi, perché non parleremo di fascismo, però sì di alcune cose che, insomma, si sono un po' carpite in questa canzone, per così dire. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, una canzone di periodo fascista, però decisamente ne abbiamo abbastanza. Parleremo di calcio e musica, perché il titolo della puntata è Tutto il calcio, canzone per canzone. E niente, questa puntata sostanzialmente sarà una rapida carrellata, ovviamente non esaustiva, perché nonostante il titolo è un po' ingannevole, lo riconosco, perché le canzoni che sono state prodotte in Italia a tema calcistico o con contesto sono calcistico milioni, sono moltissime. Milioni. Milioni, non miliardi. Lo so, però... Ma siamo tutti CT, quindi è possibile che i compositori abbiano fatto almeno 15-20 canzoni per ogni CT, non lo so. Però sicuramente potremmo dire centinaia agevolmente. È una piccola selezione e abbiamo notato anche a scaletta conclusa che curiosamente abbiamo dato una certa importanza alle canzoni alle sigle dei programmi calcistici storici. Perché abbiamo cominciato, dai, diciamolo, con il 90° minuto, ma tutti se ne sono resi conto, a parte forse i ventenni e i millennials o la generazione X, non so. Beh, sarebbe anche una buona notizia sapere che gente di quel periodo anagrafico ci ascolta. Ciao giovani. E comunque sì, diciamo che alla fine, quando avevamo la scaletta computer, ci siamo resi conto che quel tipo di immaginario lì, cioè la commistione fra calcio e televisione, è entrata di prepotenza nella scaletta, perché effettivamente si tratta di, non, come posso dire, pietre miliari dell'immaginario italiano, ecco. Eh sì. Insomma, tutto il calcio, non minuto per minuto, ma canzone per canzone. Questa è la puntata di questo 6 ottobre di Zibaldone. Abbiamo cominciato con gli anni 40, meglio dire 1940 esattamente, perché poi, insomma, con la guerra molte cose sono cambiate. Non entriamo in questa questione. Oggi si sentiva, no? Recca tra le mani la donzelletta, una rete a tempo di Foxtrot, quella di Meazza, era la donzelletta, una canzone incisa nel 1939, questa versione è dell'anno successivo, del 40, della Dino Olivieri Orchestra. E Banzo, noi però andiamo avanti e troviamo una canzone che invece è dedicata a Gianni Rivera. Esatto, facciamo un salto di più di 20 anni per arrivare, non so se è uno dei primissimi esempi, però proprio una canzone dedicata all'idolatria calcistica, ecco. Ce l'andiamo a sentire. Jerry e i Milanisti sono chi canta questa canzone. Rivera, Cia Cia Cia, 1962. Rivera, Rivera, ma che coreador. Rivera, Rivera, quello è un andador. Ha il nome di un oriundo brasiliano, ma è nato qui in Italia. Rivera, Rivera, uno come lui. Rivera, Rivera, chi l'ha visto mai? E la disperazione dei portieri, se arriva lui, son tutti gol. I giocatori stanno intorno in 11, qualcuno prima o poi lo fermerà. Invece no, li scarta tutti e 11, e in rete col pallone se ne va. Rivera, Rivera, ma che goleador. Rivera, Rivera, quello è Matador. È l'uomo che ci invidia tutto il mondo, ma lui sta qui, in Italia. Invece no, li scarta tutti e 11, e in rete col pallone se ne va. Rivera, Rivera, ma che goleador. Rivera, Rivera, quello è Matador. È l'uomo che ci invidia tutto il mondo, ma lui sta qui, in Italia. Rivera, Rivera, Rivera. Insomma, questa canzone, no, Banzo, di Jerry Milanisti, Rivera Cia Cia Cia, insomma, Rivera con questo cognome dicevano che sembra un latinoamericano, però in realtà è nato in Italy, no? Beh, ma anche questa frase è un po' ridondante, nel senso che ovviamente gli oriundi avevano nomi da italiani. Sivori, dai, no, pensiamo a Sivori, dai. Esatto, forse il più grande fra tutti gli oriundi. Comunque, Steven, so che muori dalla voglia di chiedermi chi erano Jerry Milanisti. E questa era la mia domanda. Subito. Vai, non vai, vai, procedi. Idea. Ah, non lo sappiamo, non lo sappiamo? Non lo sappiamo, perché si tratta di un gruppo estemporaneo che ha inciso solo un 45 giri, questo qui, Rivera Cia Cia Cia, e il lato B, il lato A è Milan Twist. Non hanno avuto successo, niente, da quello che capisco, quindi. non lo so, forse un successo non sufficiente per continuare. Ma non era male, non era male questa canzone. Ma ti dico, io ho montato un limbo qui in casa mentre l'ascoltavo, però sai che sono economico ma non molto scattante. E quindi alla ricerca di informazioni su Jerry Milanesi non ho trovato un tubo. Sul vinile c'è scritto "Canta Jerry, complesso i Milanisti", quindi ancora più strano. È tautologico. Sì, sappiamo qualcosa degli autori però, che sono Luciana Medini e Mario Mellier, o Mellier, non so, che hanno sono un team creativo molto attivo negli anni 60-70, la Medini era la paroliera, mentre Mellier era l'autore delle musiche, e sono stati autori di brani che hanno partecipato a Sanremo nella prima metà degli anni 70 con artisti che non molti ricordano o non conoscono direttamente, come Angelica, Eugenio Alberti e Junior Magli, quindi diciamo un po' sono passati sotto traccia. Sì, forse era meglio che continuavano con i Jerry Milanisti. Noi andiamo avanti e troviamo il molleggiato, anche lui in questa puntata di Zibaldone. Eravamo in 100.000, parliamo ovviamente di Adriano Celentano, sentitevelo qui. Scusi lei, chi c'è? Dove va? Perché? Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'I, lei del mi, oh bella mora, da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì, e poi finita la partita, la vidi uscire di sfuggita con uno sul tram. Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due perché le ha segnato un gol, le ha segnato un gol diretto nella porta del mio cuore. Ed ho capito che c'è solo lei per me. Ed ho capito che c'è solo lei per me. Per chi si sente cittadino ma ha voglia di guardare avanti. Per chi vuole muoversi anche quando parla italiano. Per chi ha molti interessi. Io ho una merendina. Io ne ho due. Tutte le felicità del mondo. E vabbè, avete sentito che abbiamo anche la nostra pubblicità Progresso. Io sinceramente non ho capito bene dove, come e dove si è arrivate, soprattutto che cosa stia sponsorizzando, ma lo chiedo al nostro Fausto De Salvia, a cui do il bentornato a Zibaldone. Fausto, buon pomeriggio anche a te. Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Ma in realtà non l'ho capito bene neanch'io, so solo che mi hanno offerto mezza merendina per pubblicizzarla, quindi ho detto dai, si può fare, è comunque un affare a un certo punto. E vabbè, avete capito che su Zibaldone abbiamo anche degli sponsor in questa nuova stagione, uno Zibaldone nuovo formato, un'ora. Però andiamo subito qui al punto. Adriano Celentano, il molleggiato, in realtà il suo è un derby d'amore, diciamo così, no Fausto? Sì, un derby d'amore un po' sfortunato, diciamo che lui capisce che lei gli dice sì dall'altra parte della curva, perché lui dell'Inter, lei del Milan, siamo fra l'altro nell'epoca della grande Inter di Herrera, del Milan di Rocco, quindi siamo in periodo di derby infuocati, però interpreta questo sì, che però a quanto pare invece non si concretizza, e quindi abbiamo per una volta al molleggiato va a finire male, ecco, diciamo che non riesce a conquistare da preda, ecco, diciamo come era suo solito. Questo è un pezzo classico, del classico stile di Celentano dell'epoca. Se andiamo a vedere gli autori, abbiamo Beretta al testo, Sant'Ercole anche se non è accreditato alla musica, e gli arrangiamenti di Detto Mariano, spumeggianti, quindi è proprio un pezzo tipico del Celentano dell'epoca, che 1967. Diciamo, in questa nostra antologia, esatto, in questa nostra antologia, diciamo, rappresenta la quota Inter, diciamo, perché comunque lui è notoriamente interista, anche partecipato a diverse manifestazioni negli anni, ecco, e quindi abbiamo, fra l'altro, ricordiamo che a San Siro non ci possono stare 100.000 persone, all'epoca non c'è ancora il terzanello, però sappiamo che a Celentano è il re degli ignoranti, quindi diciamo che ha esteso la capienza da 75.000 a 100.000, ricordo, cosa vuoi che siano 25.000 persone in più. Il populismo molleggiato, visto che si è parlato di telepopulismo, di tecnopopulismo, ecco, questo è un populismo del 1967. Dopo Celentano non può mancare Mina, andiamo ad ascoltare una canzone anche della Tigre di Cremona che si intitola Ossessione 70. Sì, Domenghini e Mazzola cantava Mina in questa Ossessione 70. Fausto, vabbè, secondo me è l'unica canzone in cui si nomini Valcareggi, o sbaglio? Sì, credo proprio che sia così. Fra l'altro è una instant song alla fine perché può sembrare evocare un mondo lontano, perché naturalmente anche lo stile bossa nova, ci fa pensare magari a magari la canzone scritta molti anni dopo, invece in realtà è proprio stata scritta nel 70, è stata scritta da Fausto Cigliano, ricordiamolo, che l'ha pubblicata, ho letto lavatrice del disco, il 6 di luglio del 70, quindi 2 settimane dopo la finale che l'Italia perse col Brasile 4-1, quindi proprio della serie sull'onda dell'emozione, soprattutto generata dalla semifinale storica Italia-Germania 4-3, Cigliano scrisse questa canzone e Mina l'ha resa popolare, perché effettivamente la versione di Cigliano la ricordiamo un po' in pochi, e comunque aveva sempre questo arrangiamento bossa nova, quindi siamo proprio nei primissimi anni 70, Centro America, Sud America, per come lo vedeva naturalmente l'Italia all'epoca, e quindi diciamo l'intera formazione italiana, compresi anche i panchinari, quindi proprio ricordando sì. anche chi non ha mai giocato nemmeno un minuto. Esatto. Andiamo avanti, rimaniamo negli anni 70 con una cosa molto particolare, non vi dico nulla, sentitevela qua. Ischia mia, la forza sei tu, ischia mia, l'amore che tu dai a noi con fatta gioventù, è la gioia dei nostri cuori, poi raggi del sol noi vinciamo, poi riflessi del mar noi spediamo, ma felici per sempre saremo, quando vinci o sconfitta sarai, forza Ischia, forza Ischia, forte sei già, forza Ischia, forza Ischia, grande sei già, Ischia mia per te soffro già, Ischia mia per te lo so già, che ti impegni con tanta volontà, per non tradire a forte realtà, forza Ischia, forza Ischia, forte sei già, forza Ischia, forza Ischia, grande sei già. Forza Ischia, grande sei già, forza Ischia, forza Ischia, forte sei già, forza Ischia, forza Ischia, tu grande sei già. Vabbè, ma insomma, siamo passati, Banzo, dall'Inter, il Milan, la nazionale, quella mitica del 4-3 alla Germania in semifinale, all'Ischia, che io negli anni 70 non ho proprio idea, non so se tu lo sai, in che categoria giocava. L'Ischia credo che al massimo abbia raggiunto la terza categoria, cioè la Serie C nelle sue varie denominazioni. Comunque, perché abbiamo scelto ecco, questo brano? Questa è la domanda che ti volevo fare. Sorge spontanea, come direbbe Lubrano. Gli inni delle squadre di calcio sono per lo più uno strazio, devo dire. Sì. Sono un sottogenere che ha prodotto pochissime cose degne di menzione. Forse You'll Never Walk Alone del no, Liverpool, ma ascolta, è una canzone preesistente riadattata. Come romanista ti devo dire che l'inno non ufficiale della Roma di Venditti è forse una delle cose più belle che c'è in questo genere. Sì, possiamo essere d'accordo, e Venditti è contento anche tutte le volte che la Roma vince perché i diritti d'autore impazzano. Comunque, appunto, al netto del fatto che se non avessimo scelto queste canzoni arcinote ci saremmo imbattuti solo in qualcosa di terribile, siamo andati a pescare una squadra piccola e un gruppo sconosciuto, perché oggi io mi occuperò solo di gente, quasi solo di gente sconosciuta, perché anche The Snobs hanno un unico 45 giri all'attivo, sembra, non so nulla di loro, immagino fossero gli Schittani, se tanto mi dà tanto. Il lato B di questa canzone si intitola Ischia sto cu te. Sappiamo che erano un quintetto dalla fotografia reperibile su Discogs, probabilmente inciso negli anni 70 perché l'abbigliamento non mente, e dai baffi poderosi in generale. molto anni 70, è così. Adesso però saltiamo subito agli anni 80 e troviamo un grandissimo cantautore, interprete, musicista, artista a tutto tondo, Enzo Iannacci, con questa canzone che forse a qualcuno dirà qualcosa. Tra l'altro Enzo Iannacci sarà protagonista tra un paio di settimane dello Zibaldone, perché avremo uno speciale sul premio Tenco 2023 che è dedicato proprio ad Enzo Iannacci. Però insomma di questo ne parleremo a metà ottobre. Pensa alla TV, ha già negli occhi calci di rigore, sì, ma il casello non arriva mai. Mentre ritorna fresco e stanco da un lungo weekend, guida distratto e pensa alla TV, ha gli occhi persi dentro i calci di rigore, sì, ma al casello non si arriva mai. Se parlerà. Vabbè, Iannacci era un genio, non c'è bisogno di ricordarlo, di ripeterlo ancora. Fausto, qui l'abbiamo recuperato per questa linea bianca che è stata la sigla di un programma televisivo. Sì, come diceva prima il Banzo, torniamo appunto all'immaginario televisivo e il calcio. In questo caso è la sigla della Domenica Sportiva, che ogni anno in quegli anni cambiava sigla e quindi si sono alternati grandi gruppi, autori, vedremo qualcosa anche in seguito nel resto della puntata, anche autori come Bennato, diversi cantautori si sono cimentati con le sigle. Questo è il caso di Iannacci, con un brano che pochi diciamo ricordano perché uscì solo su 45 giri e musicalmente diciamo deve molto a un pezzo vecchio di Paul Simon, diciamo un pochettino lo riecheggia, però diciamo sono cose cadute ormai in prescrizione, sono passati 40 anni, però un bel pezzo davvero, perché proprio parla dell'immaginario appunto televisivo, che della domenica, che ricordiamo all'epoca vedeva tutte le partite giocate contemporanee, una cosa che oggi sembra un passato ultra remoto, ma era all'epoca invece era la normalità, e quindi i gol si vedevano non inteso un minuto e i servizi completi si vedevano alla sera, tipo dopo le 10:30 di sera, quindi uno correva da nudo weekend correndo a casa per vedere i gol. Sì, questo è proprio vero. Tra l'altro Iannacci, che poi qualche anno prima aveva inciso quella meravigliosa Quelli che poi non era stata pensata all'inizio come una sigla, diciamo, legata al calcio, che però divenne negli anni 90 la mitica sigla di Quelli che, il programma condotto da Fabio Fazio. Noi adesso andiamo avanti. Certo, Steven. Infatti, fra l'altro una cosa mi hai ricordato, Quelli che è il calcio, Iannacci fece diverse versioni. Io mi ricordo che praticamente ogni tot puntate lui le aggiornava col suo fare stralunato, inserendoci riferimenti ai calciatori del momento. Ne esisteranno decine di versioni di quella canzone. Sì, assolutamente. Noi adesso però facciamo un salto e trovi una cosa assolutamente particolare. Era il 1985, sentitela un po' qua. Rimbalza nel cielo e torna giù e mi dà coraggio. Un angelo passava nel cielo e si è fermato, non va più via. In paradiso voglio giocare come fai tu, che mi devi insegnare. Forse sto sognando, devo giocare, speriamo di segnare. Sto correndo, passa la palla a tiro e sto giocando. Un colpo di testa e sto correndo ad abbracciare 100.000 razzi. Beh, dobbiamo dire che davvero è un pezzo bruttissimo questo Banzo, questa Sto correndo, 1985, però ha un senso mandarla in onda, non solo perché insomma si capiva che aveva una tematica calcistica, ma anche per l'autore, l'interprete, meglio dire, di questo brano. Beh, guarda Steven, ti devo contraddire perché ti giuro che io conosco una persona che sostiene che questa canzone sia bellissima. Vabbè, e non lo sto dicendo, non lo sto dicendo per la gag. Senti, non dico il suo nome per radio. Dillo, per favore, dillo. Ciao Adam, se ci stai ascoltando. E quindi, allora, sì, è una canzone cantata da Beppe Galderisi, Nanu Galderisi, nel periodo in cui giocava nel Verona. E non solo nel periodo in cui giocava nel Verona, ma pochi mesi prima della conquista dello storico scudetto veronese, che è rimasto un unicum nel 1984-85. E questa canzone proviene da un'iniziativa discografica piuttosto bizzarra, perché si tratta di quello che tecnicamente è uno split, un 45 giri split, cioè sul lato A, sul lato B c'è Galderisi, sul lato A invece abbiamo I Ragazzi della Curva con la canzone Verona Dai. Un po' fascisti in genere, esatto, forse. Sì, i ragazzi della curva, i nazisti della curva del Verona, e non mi stanno simpaticissimi, però l'impresa del Verona nel 1985 con alla guida il sempiterno Osvaldo Bagnoli rimane, secondo me, fra le più grandi leggende del nostro calcio, del nostro campionato. Andiamo avanti e troviamo un'altra cosa particolare. Sentitevela, non vi dico nulla, ne parliamo tra qualche secondo, minuto. Turchetta si appresta al corner dalla bandierina, siamo ancora sullo 0-0 al San Paolo di Napoli, tra Napoli e Cesena. Ecco che Turchetta prende la rincorsa e parte il tiro scadente. Garella di nuovo di piede verso Franzini, che fa partire il corriere. Battire i corti, l'estate, qualche anno fa, com'era calda, com'era bella. Quando si giocava a calcio e io dimenticavo i guanti e dicevo oggi faccio Garella. Garella l'ho rivisto in TV qualche sera fa, è più grasso di Maradona. E Claudio Garella è il più grosso portiere d'Europa. ricordi l'Italia qualche anno fa, gelato snack o snack gelato, quando si giocava a calcio e mio padre era un ragazzo e Buffon appena nato. Se cicciolina è vergine, domenica violini, gioca 15 minuti di partita. Se cicciolina è vergine, Giulio Nucciari fa mezz'ora in tutta la sua vita. Estate qualche anno fa e chissà oggi dov'è finita, se ho dimenticato i guanti ma ho le scarpe coi tacchetti, oggi faccio i chitarra. Vabbè, qua si parla di portieri, abbiamo fatto un bel salto in avanti, Banzo, devo dire la verità, perché è un brano del 2008, però in realtà parla veramente degli anni 80 e 90, Garella, non so quanti lo ricorderanno, portiere del Verona e del Napoli, ma poi, insomma, io sono anche molto affezionato a Higuita con la famosa parata dello scorpione, Banzo, eh? Guarda Steven, non abbiamo tempo se dovessimo parlare di Higuita, però recentemente ho trovato una pubblicità colombiana degli anni di gloria di Higuita che è qualcosa di veramente sovrannaturale. Purtroppo non possiamo trasmetterla alla radio, se no lo farei. Ma tornando un attimo a Garella... Però aspetta un attimo, perché mi dici Higuita, a me viene in mente uno Valderrama, per cui ho una grande passione non solo per i capelli, e dall'altra il povero Escobar. Guarda, l'intenzione, parlavamo anche con Fausto, è di fare altre puntate di questo speciale dedicate anche al calcio internazionale, e io spero che qualcuno abbia scritto una canzone, su magari una cumbia, su questi calciatori, su questo contesto più unico che raro. Ecco. Sì, Aspria, vabbè, la chiudiamo qua, torniamo a Garella, vai Banzo. Ecco, allora, questa è una canzone di Jocelyn Pulser, nome d'arte di Francesco Pizzinelli. Per gli appassionati più hardcore del nostro programma, lo avevamo trasmesso più di 10 anni fa con un'altra canzone sempre a tema calcistico. Inevitabilmente, naturalmente, il Cesena perde, che è una canzone che unisce la tematica sentimentale a quella calcistica dalla prospettiva di una squadra, diciamo, che non sempre gioca ai livelli più alti. Sì, insomma, si può dire, quel pezzo era del 2012, sicuramente Pizzinelli o Jocelyn Pulser ha una grande passione per il calcio, al punto da, e probabilmente è nato, cresciuto negli anni 80, va a cogliere tutti questi riferimenti di quel periodo. E Garella, tu hai ricordato che ha giocato nel Verona e nel Napoli, è verissimo, ma non solo quello, ha vinto il primo scudetto... Ha vinto con due scudetti, uno col Napoli e uno col Verona, e in entrambi i casi si trattava del primo scudetto per queste squadre. Per il Verona poi sì, è rimasto l'unico. E quindi diciamo che, oltre al fatto che era un portiere dallo stile unico, le garellate, il soprannome Garellic, secondo me gli scudetti hanno un peso specifico, Steven. Cioè, lo scudetto del Cagliari ha un peso specifico molto più alto di uno scudetto delle tre grandi. Quindi Garella, io non so se ci rendiamo conto dell'impresa, che va al Verona, vince uno scudetto, va al Napoli, vince uno scudetto, e in entrambi i casi è la prima volta. Eh sì. Vabbè, adesso mandiamo in onda una canzone che io non vorrei mandare in onda per il titolo, non vi dico qual è, perché è una squadra che veramente non sopporto. Io preferisco che la mia squadra del cuore, come si diceva da bambini, non vinca nulla, però che questa squadra a cui è dedicato questo brano vada in Serie B. Comunque, insomma, ce l'ascoltiamo e dopo ne parleremo. Dichiarazioni molto polemiche, Steven. Molto, molto, molto. We'll be right back. pensa al nostro dolore. Chi tifiamo quest'estate? La Russia di Zavaro. Zavaro che si fa le foto seduto sul cofano d'una Ferrari, ma dai. Ma chi ci pensa al nostro dolore? Ci avete tolto un'estate, che cazzo l'abbiamo comprata a fare la televisione per guardare che bombardano la Siria, ma dai, ma dai. Ventura c'è deluso, continua a guadagnare, ma che cazzo ti è venuto in mente di non cambiare quel modulo di merda che c'hai nel cuore? Ventura c'è deluso, continua a guadagnare, ma che cazzo ti è venuto in mente di non cambiare quel modulo di merda che c'hai nel cuore? Insomma, questa canzone, insomma, non l'avete magari capito, si chiama Urrà Juventus, si nominava Zavarov, grande calciatore, bisogna dire la verità. Loro sono gli Scudetto, l'album è Vendetta, è così, giusto? Sì, Steven, il primo album di Scudetto sembrava un divertissement di Alessandro Fiori e di Giacomo Laser, secolo Giacomo alla Z. E invece sta per uscire anche un nuovo album, quindi l'hanno appena completato, l'hanno presentato dal vivo in qualche data, quindi ho già sentito qualche brano interessante. È un progetto, diciamo, loro si definiscono gli ultimi trapper del secolo del Novecento, ecco, quindi della serie. C'è questo conflitto fra l'immaginario anni 80 e il calcio anni 80-90 che si mescola con le vicende di tutti i giorni. Infatti qui abbiamo un brano, proprio uno dei primi loro che era uscito, che unisce appunto la dispiacere per l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, la mancata partecipazione che sembrava una cosa così assurda, e poi è capitata anche 4 anni dopo, quindi ricordiamo, sì. E andandolo invece con la guerra in Siria, naturalmente vicende personali che ci intersecano. Quindi in realtà è un brano che in questo speciale è in quota Juventus, ma il riferimento alla Juventus è alla mitica rivista che credo che adesso è Scanconi in versione annuario, però non diciamo che di giocatori sì, juventini sì. C'è una citazione di Platini e di Zavarov e nulla più, ecco. Beh, Zavarov mi piace. E comunque, insomma, noi andiamo avanti perché troviamo un'altra cosa molto particolare. Il brano che ci siamo appena ascoltati era del 2018, rimaniamo sempre, insomma, abbastanza in epoca recente con questa canzone del 2016. Sentitevela qua. Beh, ma questo brano è veramente meraviglioso, e tra l'altro è meraviglioso, Fausto, anche il titolo, che è Sex Pizzul, cioè una meraviglia. Sì, è un gruppo fiorentino, si definiscono un trio mundial disco punk, quindi disco punk, quindi uniamo l'immaginario calcistico al punk clash elettronico più estremo. In questo caso loro hanno fatto due dischi, adesso un pochettino che sono scomparsi dai radar perché sono poi coinvolti in mille progetti. Fra loro c'è anche Francesco D'Elia, che lavora molto con Enrico Gabrielli nei suoi progetti, quindi ovviamente sono musicisti impegnatissimi. Hanno fatto questo bellissimo album a tema calcistico, con brani anche dedicati a Socrates, quindi anche al calcio d'oltreoceano. In questo caso abbiamo ripreso, siamo sempre nell'immaginario del calcio alla televisione, anni 80, 70, 80, 90. Questa era la famosissima sigla di Oscar Prudente per il programma Domenica Sprinter. Il programma principe del calcio su Rai 2 dell'epoca. Fra l'altro molti, c'è una leggenda sul testo, tanti si chiedono ma che cosa dice nel testo, molti dicevano ma dirà viva viva il goleador. In realtà poi lo stesso Oscar Prudente ha chiarito che aveva fatto pronunciare a diversi coristi, a diverse persone presenti in studio, ognuno una parola diversa, c'è chi diceva goleador, chi bimbaladum, quindi ovviamente fondendosi dovevano ricreare l'effetto da coro da stadio, ovviamente, quindi con la difficoltà di capire cosa stesso era effettivamente dicendo. Fausto, grazie di essere stato con noi, perché noi ormai ci stiamo avvicinando alla fine della puntata, ti salutiamo e ci ritroviamo presto. Alla prossima puntata, ciao Steven, ciao Banzo. A presto, noi andiamo avanti, un altro brano, sentitevelo qua, perché è un'altra cosa particolare, sempre molto recente, però insomma il titolo, vai dai, ve lo dico, si chiama Higuaín. Oh, oh, oh, mi diverto solo se a morire un Higuaín, e solo mi diverto solo se a morire. Parto rito, qua sotto mi sembra un po' Porto Rico. Mi porto d'armi come amico, così più nessuno mi dice di no. Fa culo De Niro, io voglio il dinero. Mi dici ti vivi ma io non ti credo. Sotto la piazza non abbiamo credo. Fra viva la razza come di Guerrero. E mi sa che ho talento da vendere, come la droga sotto da me. Dai sette palazzi ai sette re, quartieri spagnoli, andale, andale. Il mio nome è nella zona tua, respiti come dentro i pullman. Tu sei Fabrizio Corona, io c'ho la corona. Sono le mora che ti cula. E sono il P.I.P. B.I.G. per estate you call me DNG. Ti giuro che i cugini miei non fanno i G, ma ti fottono la vita se poi li spingi. Di notte THC, di mattina vivi C. Se vuoi capirci invece di parlare, fra vieni qua sotto e poi vivi C. Vabbè, Banzo, qui devi insomma svelare un po' l'arcano. Cioè, ho capito benissimo questa canzone, però dai, dici qualcosa di più. Innanzitutto, chi è quello che la canta, che si chiama Enzo Dong, che io non capisco se è un napoletano di origine cinese. No, beh, Dong ha un significato, e comunque questa canzone, Steven, è famosissima su YouTube, ha 19 milioni di visualizzazioni, io te lo dico, 19 milioni. Vabbè, io non l'ho mai sentita. No, io invece la conoscevo e devo dire che è un po' un mio guilty pleasure e l'ho inserita per questo in scaletta. Allora, ma torniamo al nome di Enzo Dong, il suo vero nome è Vincenzo Mazzarella, quindi abbiamo spiegato il perché di Enzo. Invece Dong pare che venga dal rione Don Guadel, in zona Scampia, Secondigliano, scusate se non sono precisissimo, che è dove è cresciuto lo stesso Enzo Dong, e poi ha assunto in seguito il significato dove ognuno nasce giudicato. È diventato un acronimo, è una frase che è molto ricorrente nelle sue canzoni. E poi, diciamo, più specificamente su Higuaín, la canzone, voglio dire, è una canzone che parla di calcio solo nel ritornello, sì, perché per il resto c'è tutto l'immaginario, potremmo dire gangsta quasi, però effettivamente diciamo che lui quelle esperienze le ha vissute realmente, e Il passaggio dal Napoli alla Juventus di Higuaín è stato alcuni anni fa uno dei trasferimenti più clamorosi del calciomercato, e da allora i napoletani insomma non hanno mai digerito, ecco, non hanno ancora perdonato Higuaín. Andiamo avanti, per questo tradimento. Andiamo avanti, Banzo, che siamo a fine trasmissione, abbiamo ancora un paio di brani come questo che vi sentite proprio ora. L'importante è sperare, continuando a suonare, ma in fondo che male c'è? E basta dopo che accordi, l'importante è armonizzare, fino un tocco di genialità per ritrovarsi a diventare, gli accordi a suonare, purché si torni e promesso l'altra pensa che incomincia su Studio Sport, lo sa nemmeno i risultati. Abbiamo fatto la domenica, sportiva ore 3. E meno male che la festa da lunedì c'è contro capo, ma quando si inizia a funzionare, perché si dice che se si darà uno dei mod, non adorerà uno di me. Per ritrovarsi a canticare lungo la tangenziale, per ritornare entro mezzanotte e mezza che comincia sullo sport. Beh, Banzo, devo dire la verità, non ho capito molto del testo, un brano punk rock chiaramente, loro si chiamano Bellicosi, ho sentito la Studio Sport e Galeazzi. Beh, anche la mitica frase, qualcosa inizia a non funzionare perché si dice che se Zidane era uno dei mod, Ronaldo era uno skinhead, che per me è una frase di una genialità, a partire dalle pettinature dei calciatori tira fuori questo... ma finto teorema politico, fa troppo ridere. Loro erano i Bellicosi, come dicevi anche tu, staccato, si può leggere sia Bellicosi tutto attaccato aggettivo, sia Bellicosi, in realtà è scritto staccato. Erano un gruppo di Torino attivo fra la fine degli anni 90 e il 2003. Questo brano è tratto dall'album Torino Rock and Roll Stars, che è un discone. Io sono un grande fan dei Bellicosi, che hanno rappresentato un po' nella floridissima scena punk hardcore torinese un aspetto un po' più scanzonato, anche se non erano necessariamente un gruppo demenziale. Infatti ci sono anche brani molto seri o che affrontano tematiche serie con ironia, e sempre questo piglio diciamo a rotta di collo. Un altro brano che vi consiglio, se volete andare a cercarvelo, Einstein, che dura 47 secondi. Insomma, un'ora di puntata vola, e tra calcio e musica potremmo dedicare tanti speciali, e tra l'altro io insomma non solo ho sentito la mancanza di tante cose, ma soprattutto di Biscardi, però così la lascio, così chiudo, noi però ci salutiamo con un ultimo brano, Banzo, che è un grandissimo compositore, Piero Umiliani. Il grandissimo Piero Umiliani, sì, noto per le sue colonne sonore, le sue sonorizzazioni, maestro assoluto dell'easy listening, dotato di una levità sovrannaturale, una raffinatezza nel comporre questi brani meravigliosi, spesso come il caso di questa Daybling del 1963, che i più attempati ricordano come sigla della domenica sportiva, quindi siamo lì ancora una volta. Però al di là del riferimento diciamo televisivo, pensiamo comunque che si tratta di un pezzo di Umiliani, quindi qualità altissima. Certo. E con questa canzone ci salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, qui come sempre dalle 5 alle 6 del pomeriggio di venerdì su Zibaldone Radio Contrabanda. Trovate tutti i nostri podcast su il blog zibaldone.contrabanda.org. Niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 17.57 diceva... non temere Steven, perché la magica apparirà sicuramente in una seconda puntata della serie. Allora io l'aspetto. Andiamoci ad ascoltare Piero Umiliani, godetevi questa canzone, godetevi il venerdì sera, buon fine settimana a tutti e alla prossima settimana.